La zanzara con Luca Telese. Eccoci qua, la zanzara torna a ronzare persino a Ferragosto. Ma che cosa volete da noi? Cosa volete di più? Il sangue? Ebbene, quasi anche quello arriva. Allora, oggi, anche se non ho la scaletta, qualcosa dovremo dire e iniziamo a raccontarvi che oggi Giorgio Bocca fa polemica, ha scritto un editoriale molto contestato, addirittura è andato sui TG perché ha detto praticamente che i carabinieri sono dei mafiosi, quindi c'è molto da discutere di questo, di altro, delle vacanze di Beppe Grillo e dei radicali che girano per le carceri, infaticabili monaci dei diritti, ma adesso scaldiamoci con il TG2. Le immagini inedite nel video di un turista dello scontro aereo a New York in cui sono morti 5 italiani, sospesi 2 controllori di volo. Uno era al telefono con la ragazza, l'altro era assente. Parlano al TG2 i genitori del bimbo di 10 anni morto a Palermo per una lite dopo una partita. L'autopsia ha escluso lesioni gravi. Ora il padre dice: voglio sapere la verità. Famiglie indebitate per 15.000 euro in media, prestiti in gran parte dovuti ai mutui per acquistare o ristrutturare la casa, ma in molti chiedono finanziamenti anche per i beni di largo consumo. Ultime partenze di Ferragosto, traffico da bollino rosso, code ai valichi alpini, prevista una giornata di sole su tutta la penisola, da domenica i primi rientri. E ancora qui in studio le gabbie salariali, ne abbiamo parlato, poi le abbiamo archiviate, poi ne abbiamo riparlato, adesso Bossi ritorna a discutere, non si finisce più, e allora sentite i titoli di Studio Aperto. Parlano i genitori di Umberto, il ragazzino di 10 anni morto a Palermo. Per i medici è stato ucciso da una faringite fulminante. Non è possibile, accusa il padre. Era sano, vogliamo sapere la verità. E poi il sospetto atroce su quei bulli che lo perseguitavano. Lo schianto sul fiume Hudson, sospesi i controllori di volo. Al momento della tragedia, uno chattava con la fidanzata, l'altro era assente. Le immagini shock dell'impatto tra il Piper e l'elicottero nel video girato da un turista italiano. L'ha tirata nella stanza con una scusa, poi l'ha tramortita e stuprata. Arancia Meccanica in un hotel di Genova. La vittima, una donna di 32 anni, impiegata dell'albergo. L'aguzzino, un romeno di 33. Ha tentato la fuga gettandosi dalla finestra. È stato arrestato. Milano, dentro il ghetto della droga, a poche ore dal blitz di polizia e carabinieri nelle case Haller, ostaggio di spacciatori tossicodipendenti, siamo tornati nel quartiere. Degrado, abusivismo e paura. Appena arrivati qualcuno ci dice: attenti, vi hanno già puntato, sono armati. Vietato l'ingresso ai clandestini, Padova, iniziativa di un barista cinese che, per evitare guai con la questura, ha pensato di avvisare anche le persone in possesso di stupefacenti. Tensione tra immigrati e agricoltori, scoppia il Mantovano, il caso Ramadan. Gianluca Grignani sul palco di Vigianello in Basilicata stona e si impappina. Contestato dal pubblico sviene e rischia la denuncia degli organizzatori del concerto. Dopo i problemi con la droga, la patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, ora questo episodio. Cosa gli succede? L'estero cosa può succede aspettare Gianluca Grignani? Noi abbandoniamo Studio Aperto dopo aver visto una sventagliata di titoli anche interessanti, ma vi parlavamo di questo. Allora, l'anti-italiano ha colpito ancora la veneranda età che si ritrova, superati gli 80. Ecco, scrive che i carabinieri, piuttosto che combattere la mafia, preferiscono coesistere. Allora sentite il TG5 che ci racconta l'ultima polemica di Giorgio Bocca. Che lo dica uno come Massimo Ciancimino, figlio del famigerato ex sindaco di Palermo. Capita, ci è saltato il computer a Ferragosto, può accadere di tutto. Insomma, cercheremo di ripristinare il servizio per sentire il racconto di quello che è accaduto a Giorgio Bocca, ma sapete cosa c'è scritto sul sito di Repubblica? Addirittura che lo Stato pensa di restituire le auto di lusso sequestrate dalla polizia alla mafia. E sapete qual è la motivazione? Non possiamo permetterci. È una cosa che sicuramente stupisce. Si tratta di auto di grossa cilindrata sequestrate negli anni scorsi, e praticamente, secondo Maroni, era un annuncio dato in grande stile a Natale l'anno scorso, un grande successo, una Ferrari 512 gialla, una Porsche Cayenne nera, le prime vetture di lusso confiscate da far girare con la polizia a bordo nei posti dove prima girava il mafioso, e per far capire che il clima è cambiato. Queste le parole di Maroni nella conferenza stampa di Natale. Invece, nei giorni scorsi è arrivato un contrordine, una laconica circolare della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che dice: le auto di grossa cilindrata la polizia non le vuole perché la manutenzione è troppo costosa. Al fine di contenere, dice in questo burocratese, le spese di manutenzione del parco veicolare della polizia, si dispone la restituzione alle competenti autorità giudiziarie di tutte le autovetture superiori a 2500 di cilindrata. E quindi questa notizia già vi dà là, perché il nostro computer nel frattempo è risolto, e quindi andiamo a sentire cosa dice il TG5 di Giorgio Bocca. Che lo dica uno come Massimo Ciancimino, figlio del famigerato ex sindaco di Palermo Don Vito, che i carabinieri avrebbero avuto attenzioni speciali per Totò Riina e Cosa Nostra, è un conto. Non ha lo stesso effetto se invece lo scrive uno dei decani del giornalismo italiano, Giorgio Bocca, e scatena un putiferio. Nel numero in edicola dell'Espresso, nella sua rubrica, in un articolo intitolato «Quanti amici ha Totò Riina?», accusa i carabinieri di far parte fondamentale del patto di coesistenza in Sicilia, di controllo del territorio, con la Chiesa e con la mafia, perché i carabinieri osserva, sanno che la loro vita è appesa a un filo ed è chiaro che si creino delle tacite regole di convivenza. Il primo a indignarsi è stato il nuovo comandante generale dei carabinieri, Leonardo Gallitelli, che in un comunicato respinge le infamanti accuse di Bocca e ricorda il sacrificio dei 33 carabinieri uccisi dalla mafia, e tra questi il generale Dalla Chiesa. Sottolinea come siano stati proprio i carabinieri ad arrestare Riina e a stroncare il tentativo di riorganizzazione dei boss. Reazioni di condanna unanime e bipartisan anche da tutto il mondo politico, con il presidente dei senatori del PDL Gasparri che annuncia che querelerà Bocca per le sue deliranti accuse. E sentite, ancora più duro è arrivato dopo il commento di Ignazio La Russa, ministro della difesa. Sono qui è quello di offrire visibilmente, plasticamente, la totale e incondizionata vicinanza e solidarietà all'arma dei carabinieri. È presente il generale Gallitelli, che ha subito ieri un ignobile attacco dalle colonne di un settimanale, da un articolo di un giornalista noto, ormai anziano, Giorgio Bocca, che non ho difficoltà a definire farneticante. Farneticante, pensate che Bocca aveva citato nel suo articolo Andrea Camilleri, in qualche modo, diciamo così, a sostegno. E invece neanche il padre del commissario Montalbano ha gradito molto questo inserimento e il giudizio che Bocca ha dato dell'arma. Fortunatamente negli ultimi tempi alcuni colpi seri sono stati assestati alla mafia, e soprattutto in un modo molto razionale. Per esempio, non posso non citare l'iniziativa di Confindustria Sicilia, che espelle coloro che pagano il pizzo. Insomma, una certa presa di coscienza comincia a vedersi con estrema lentezza, questo sì, però credo che comincia a vedersi. La piovra reagisce con le stragi, gli ammazzamenti, è un dramma che si vive in tutta la Sicilia? Anche di tutta l'Italia, sa, la Palma va a nord, scriveva Leonardo Sciascia. Il momento nel quale lei sente parlare di infiltrazioni mafiose nella ricostruzione dell'Aquila o nell'esposizione di Milano, mi spieghi lei perché si continua a parlare solo di mafia in Sicilia? E dunque era Camilleri che parlava della mafia come di un fenomeno pienamente nazionale. Torna d'estate, come già ha fatto una volta a luglio in maniera clamorosa, Beppe Grillo. Sembra che vada in vacanza, non ci va mai. La sua nuova battaglia questa volta è sulla depenalizzazione delle droghe leggere, anzi della marijuana. In un colpo solo, sostiene Grillo, si colpirebbero le mafie, si svuoterebbero le carceri. E il testimonial della nuova campagna grillinista, guardate un po', è un ragazzo che si chiama Marco Pannella e che, da quando è partita questa iniziativa, sul sito beppegrillo.it dà lezioni, udite udite, di antiproibizionismo. Il proibizionismo, la forza data alla malavita della droga, che poi con Saviano e gli altri poi viene fuori che appunto ormai si confonde il capitalismo finanziario ufficiale perbenista, non dico per bene perché non c'è, e invece quello assolutamente di natura ufficialmente criminale. Eccolo, prima lezione, seconda lezione. La nostra posizione è legalizzare, non proibire, non vietare, non liberalizzare. Perché? Perché la droga oggi è da 40 anni liberalizzata, lo è adesso. Io il pane non lo trovo in Italia, magari in Francia e in Belgio lo trovo a mezzanotte il pane. No, gli alimentari. Qui da noi vietato, se no ti chiudono il negozio. Mentre se uno vuol cercare la droga, non c'è bisogno, perché è la droga che lo cerca se gira per strada a mezzanotte. Vedete che ormai Pannella parla della droga come di uno sfilatino, di una baguette, al punto che poi invita a distinguere dalla marijuana buona e da quella cattiva. Il fumatore, il ragazzo, il padre del ragazzo, mettere in condizione di dire: c'è lì, magari al supermercato, ma in genere diciamo in farmacia, c'è quella cosa che è marijuana, ma deve documentare che è quella non adulterata, perché grazie alla criminalità proibizionista che cosa hanno ottenuto? Che oggi la marijuana, è vero che molto spesso ha una forza, un potere, diciamo drogante tra virgolette, moltiplicato per 40, perché è interesse lì, così tu vai lì, dai questo al ragazzo, ma che lo dai al nonno del ragazzo che continua a fumare, e quello gli va a finire male. Insomma, Grillo radicale, Grillo come radicali, e intanto, ma sì, ripassiamo un po' una sorta di meglio di, una compilation, come si dice nel campo della musica, sentiamo la Grillade Mix, prodotto dalle potenti menti della nostra redazione di Milano. A tutti voi mezzi di informazione, veramente, ve lo dico col cuore e con l'anima in mano, andate a fanculo. Ormai siamo in mezzo a nani, mignotte, ballerini, P2, 'ndrangheta, camorra. Gente che scopre la fica a 72 anni! Italiani! Morfeo napolitano che dorme, lui dorme, dorme, si fa i pisolini, poi esce e monita! Italiani! Partiti che sono morti! C'è un PDL e un PD-L! Di là abbiamo uno psiconano, dall'altra parte abbiamo Topo Gigio! Veltroni, che non è neanche un parlamentare, un politico, è scemo! 6 persone hanno deciso i nomi di chi doveva diventare deputato e senatore. Hanno scelto 993 amici, avvocati e, scusate il termine, qualche zoccolo. Siamo in un regime, abbiate il coraggio di dirlo. E fra quelli che ruggiscono d'estate, vi ricordate le epiche esternazioni da Ponte di Legno, non si capisce come mai la sinistra sempre tace d'estate. Arrivano Bossi, Pannella, Grillo, diciamo il PD è in sonno. Vabbè, allora sentiamo il ruggito del senatur ministro Umberto Bossi, che conversando con i giornalisti ha presentato la spettacolare agenda leghista per il prossimo autunno. Lo aveva detto qualche giorno fa il ministro Zaia, le accelerazioni della Lega su temi cari alla base, dal dialetto alle bandiere alle gabbie salariali, sono tutt'altro che boutade, ma fanno parte di una linea messa a punto dallo stesso Bossi. E ieri sera è toccato proprio al senatur mettere in chiaro i punti di quella che appare come l'agenda per l'autunno del Carroccio. Sulle gabbie salariali intanto nessuna marcia indietro, chiamiamoli stipendi territorializzati, dice Bossi, ma i lavoratori del nord servono più soldi di quelli del sud per arrivare a fine mese. Poi il dialetto nelle scuole, preparerò, dice, una legge per renderlo obbligatorio. Infine i temi più politici, il partito del sud, assicura Bossi, non ci preoccupa. Più duro lo stop all'UDC, corteggiata da settori del PDL anche come possibile alternativa alla Lega alle prossime regionali in aree chiave come il Veneto. Restino al loro posto, avverte il senatur, rompono solo le scatole, non ne abbiamo bisogno, e con loro poi non si governa. Due punti, il sud e le alleanze per le regionali, che riscalderanno la ripresa autunnale per la maggioranza. Il ministro Scajola circoscrive gli interventi per il mezzogiorno, non serviranno strutture pesanti, dice. Il governatore siciliano Lombardo la pensa però diversamente, evoca il piano straordinario di aiuti dall'ovest all'est dopo la riunificazione tedesca, e dice il partito del sud servirà per vigilare e rispondere al partito del nord. Anche l'UDC annuncia battaglia. Casini, che rilancia la campagna centrista sul quoziente familiare, a Bossi risponde così. Bossi in questo momento ha carta bianca, gli è stata concessa la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo. Gli unici che hanno il coraggio di alzare la schiena davanti a Bossi siamo noi. Siamo contenti che lo abbia capito anche lui. Era il TG3 che ci racconta la Bosseide, come vedete carne al fuoco, di nuovo la russa che su questo minimizza. In agosto si parla un po' di tutti. Io posso dire con certezza che per legge non ci sarà, non dico né gabbie salariali, ma non imporremo mai per legge, posso dirlo con sicurezza, differenze salariali da territorio a territorio. E allora ritorniamo al nostro menu. Ricordatevi comunque i numeri per intervenire: 824 0024, 349 238 6666 per gli sms. E alla fine un dato che vi potrebbe incuriosire: nel 2009 saranno a circa 3 milioni i beneficiari delle pensioni di invalidità civile, per una spesa prevista di 16,2 miliardi di euro. Il Ministero dell'Economia tira fuori le cifre: boom di invalidità al sud, più 50%. Rispetto al nord. Chissà, saranno tutti come il falso invalido Benigni del memorabile Johnny Stecchino. Da un mesetto deve passare un altro controllo medico, sa? Un altro? L'ho fatto 15 giorni fa il controllo medico. Abbi pazienza, deve ammettere che il suo caso è un po' singolare, un po' strano, viaggiando con un camion. No, parcheggiato, col mio camioncino. Tirai il freno a mano con questa mano qua, quando lo potevo tirare il freno a mano, e parcheggiai. Ero lì tranquillo, quasi per addormentare, pum! Ma arriva una botta di dietro, ma tremenda! Ho sbattuto la testa nel vetro davanti e sono svenuto. E mi sono svegliato così. E la gente mi cercava di fermare. Fermi, si fermi! Quante volte l'ho legata, l'ho murata, non si ferma proprio. Sulla testa non ci capisce niente nessuno, dottor Randazzo. Mi dovreste dare di più! Mi sono rovinato, anzi. Non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere. Posso fare solo lo zabaione. Mi dovreste dare il doppio, il triplo, il quadruplo, perché siete voi assicurazioni! Va bene, va bene. Volevo solo dirle che nel mio mestiere incontro un sacco di imbroglioni. Quando riesco a beccarne qualcuno, non mi nascondo il piacere che provo nel rovinarlo. Truffa ai danni dello Stato. Truffa ai danni dello Stato, memorabile. Scambio di battute di Johnny Stecchino. Era un Benigni invalido che agitava la mano non appena vedeva il perito dell'assicurazione. Allora sentiamo le prime telefonate che arrivano. Marco da Palermo. Buonasera, grazie. Buonasera. Mi hai chiamato. Si figuri. C'è il traffico, tanto per restare in argomento. No, il traffico non c'è, non si preoccupi. Tra l'altro dico, sto rientrando in paese, sicuramente non trovo. Me lo dica con quel bel accento siciliano che la T viene tutta intartufata. Traffico. No. Traffico. Sì, ah, ma no. È bellissimo. Non riesco ad interpretarlo correttamente perché non sono esattamente di Palermo, sono di un piccolo paese vicino che si chiama Piana degli Albanesi. Quindi Albanesi, un millantatore. Un altro millantatore. Però in compenso mi reco quotidianamente a Palermo per lavoro. Ah, vabbè, allora. Che cosa voleva raccontarci? Dico, io volevo partire da una piccola provocazione, da una buttata, giusto per poi arrivare a un discorso un po' più serio. Diceva Berlusconi qualche giorno fa che si avrebbe passato almeno 10 giorni all'Aquila per seguire i lavori di ricostruzione. Beh, ora intanto si sente nei TG che è andato a Villa Certosa in Sardegna, che sta preparando un tour in Nord Africa, Libia, credo di aver sentito. Beh, forse perché gli sono giunti, come sono giunti a tutti attraverso la rete internet, notizie che effettivamente questa ricostruzione va un po' a rilento, sebbene la protezione civile ci stia rassicurando in tutti i modi, in tutte le maniere, che tutto procede secondo il planning preventivato, insomma. Guardi, credo che scopriremo qualcosa. Se queste case ci sono o meno, esattamente come gli abruzzesi, fra novembre e dicembre. Abbiamo anche il nostro certosologo, più tardi sentirà Vincenzo Lamanna, uno degli inviati che sono davanti alla Villa del Cavaliere. Vediamo che ci racconta dalla Certosa oggi. Grazie Marco, e sentiamo Lino da Cassino. Buonasera. Buonasera. Pronto, buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Senta, io premetto che sono un laico, quindi può darsi pure che la mia considerazione sia un po' di parte. In ogni caso, volevo esprimere il mio parere a proposito della decisione del TAR del Lazio, che a me sembra giusta, perché se uno è laico penso che così dovrebbe essere. Si sta parlando della decisione sugli insegnanti di religione che non possono partecipare agli scrutini. Perfetto. Io penso che sarebbe il caso di modificare, diciamo, il nome di questi insegnanti, anziché IRC, insegnanti di religione cattolica, sarebbe il caso di chiamarli insegnanti di storia delle religioni. In questo modo si potrebbe rendere obbligatorio diciamo, l'insegnamento e il giudizio. Mi pare un ottimo suggerimento. Abbiamo il primo ospite di oggi, l'hanno già soprannominato l'altro cavaliere, il cavaliere Attilio Camozzi. Buonasera. Buonasera. Ricordo ai nostri ascoltatori, noi in realtà è già da 3 giorni che parliamo di lei, il cavaliere Attilio Camozzi, leader e presidente del gruppo Camozzi, è l'uomo che ha rilevato la fabbrica che rischiava di chiudere e la fabbrica degli operai che sono saliti sulla gru per salvare il loro posto di lavoro. Oggi ho letto una sua intervista all'Unità. Ci racconta quando è che ha fatto il salto da tornitore a imprenditore? Ma diciamo da tornitore a imprenditore parliamo negli anni 70. Nel 64? Nel 70, nel 70. 1970, da quando siamo passati a lavorazione conto terzi a lavorazione di un prodotto nostro. Comunque, tornitori, so anche che il presidente del Brasile, Luiz Inácio da Silva, detto Lula, faceva il tornitore, quindi voglio dire, incomincia a diventare una professione che forma classi dirigenti. Come mai, secondo lei? Ma sicuramente si può, è una necessità, il momento che è una necessità di ritornare, non dico al passato, perché il passato è morto, il presente e il futuro, quello che dobbiamo vedere, però penso che l'uomo abbia bisogno di qualcos'altro, oltre la new economy, tutta questa storia qua di finanza, ha bisogno di toccare il prodotto con le mani, vedere cosa crea, vedere lo sviluppo, far crescere l'azienda con i collaboratori, le funzioni dei manager. Sta dicendo che il tornitore è la forma di lavoro operaio più vicino alle produzioni artistiche, perché dà forma a ciò che produce. Senta, le volevo chiedere una cosa, cavaliere. Intanto, cioè, come si fa a chiamare di solito? Scusi, mi viene cavaliere perché ormai ho letto così. Ingegnere, dottore. No, non sono dottore né ingegnere, sono Camozzi Attilio. Ah, Camozzi Attilio. Senta, dottor Camozzi, si può veramente rilanciare questa impresa? Lei ha fatto uno studio accurato, ha fatto una trattativa a colpi di milioni di euro, è stato preso da un movimento sentimentale? Oppure pensa veramente che si potranno produrre dei profitti? Ma sicuramente quando una buona parte è emozionale, perché quando ci hanno proposto, quando Maurizio Zipponi ci ha proposto di esaminare il problema di INSE, conoscendo già che noi abbiamo l'INSE, che era poi la socia dell'INSE di Milano e l'INSE di Brescia. E per cui conoscevamo abbastanza bene, diciamo, le realizzazioni, perché il 80% delle macchine dell'INSE di Milano sono fatte della INSE di Brescia, questo è certo. Il rapporto che c'è, quindi abbiamo il know-how nella lavorazione del metallo, del trucciolo cosiddetto, e questo è stato abbastanza facile per noi esaminare e prendere una decisione. È chiaro che la decisione è stata una parte secondaria, questa, la parte primaria è stata quella che congiungere le due aziende diventava una sinergia di gruppo, l'economia di scala si fanno più volumi, oggi il mercato, la globalizzazione richiede altre cose, non richiede più dei pezzettini ma richiede chiave in mano. E quindi impianti completi, e questa sicuramente è una caratteristica di quella fabbrica. Esatto. Senta, ma ha visto che Libero per 2 giorni ha attaccato questa fabbrica dicendo che è una specie di comune, che gli operai sono indisciplinati, che escono a far la spesa. Lei come si porrà di fronte a questo? Ma io non so, perché non ho letto Libero. Non so cosa possa aver detto degli operai, perché gli operai sono... Infatti era molto, abbiamo avuto anche una polemica qui, perché Cremaschi ha affrontato, diciamo, con molto piglio Gianluigi Paragone, che attaccava appunto la INSE. Ma io un libro non ho letto, questo, quindi non so come possa attaccare un qualcosa che non esiste. Cioè, cosa devono attaccare? A un certo punto o gente sulla strada. Hanno parlato che loro volevano salvare la fabbrica. E lei voleva salvare gli operai che tenevano a salvare la fabbrica. Senta, ha imparato di più nella sua prima vita da operaio o nella sua seconda da, tra virgolette, padrone? Non ho capito bene. Ha imparato di più nella sua vita da operaio o in quella da, tra virgolette, padrone? Ma sicuramente la scuola dell'operaio è molto forte. La scuola dell'operaio ti insegna a stare insieme con la gente, con i tuoi collaboratori, con i tuoi colleghi, sei aiutato, no? Io ho cominciato poi a 12 anni a fare il muratore, 2 anni dopo a 14 siamo andati nell'azienda dove ho cominciato, diciamo, a lavorare su una macchina utensili, e così poi ho imparato, mi hanno dato la possibilità allora, perché lo spirito dell'imprenditore allora era la collaborazione con gli operai in modo diverso. Ho finito la commessa, si andava a mangiare pane e salame e un fiasco di vino insieme a tutti tra il proprietario, e quindi si torna così. Senta, è ricco ora? Chi è ricco? Lei? Io? Ma no, non so se sono ricco io. Quanto c'ha sul conto? Riesco a mangiare tutti i giorni, do da mangiare a mia moglie, i miei figli lavorano, si guadagna per conto loro, la ricchezza non so che cosa è, cosa serve la ricchezza. Dove fa queste vacanze? Dove l'abbiamo trovata? Ma a casa, sono qua a Polpenate, dopo abbiamo la fabbrica. Ho capito, quindi tutto casa e bottega. Grazie a Attilio Camozzi, cavaliere, salvatore della INSE. Stiamo continuando la panoramica, i nostri titoli, allora sentiamo cosa dice questa sera il TG3. Bossi rilancia su dialetti e gabbie salariali, la Russa è colpa del sole d'agosto, veto della Lega all'alleanza con l'UDC. Sale a 15.000 euro il debito medio di ogni famiglia italiana, calo record dell'inflazione nelle zone dell'euro. Residenze fittizie, conti segreti, società offshore sono i metodi usati dagli evasori per portare i capitali nei paradisi fiscali. Il disastro del Lazio, ecco le immagini della collisione, un controllore di volo stava telefonando alla fidanzata, ai funerali delle vittime. 14 arresti per la rivolta degli immigrati al centro di identificazione di Milano, 11 feriti tra polizia e carabinieri. Parlamentari in visita ai detenuti per iniziativa dei radicali, Rita Bernardini, carceri sovraffollate, condizioni di vita inaccettabili. Per effetto della legge che vieta le nozze a chi non ha permesso di soggiorno, cancellati molti matrimoni tra coppie straniere o miste. A Saint-Tropez il sindaco rende pubbliche le spiagge più esclusive, finora il regno incontrastato della mondanità, ma i VIP si ribellano. Questa storia dei VIP che si ribellano, scusate Emiliano che sono populista, ma insomma abbiamo seguito la vicenda della spiaggia sarda con grande attenzione, adesso c'è Saint-Tropez e chissà se fra i ribelli al provvedimento del sindaco che apre le spiagge c'è anche Berti Knights alias Fausto Bertinotti, che secondo l'informatissimo sempre Dagospia ha festeggiato, bontà sua, il successo dell'INSE, ma l'ha fatto dalla Costa Azzurra con tartufi e champagne. Mamma mia, ma sembra una macchietta. Io spero che Fausto chiami e dica che non è vero, che almeno era in Costa Azzurra, sì, perché ci si è trovato, ma almeno aveva la porchetta. Sentiamo i titoli di Sky TG24. In un video lo scontro fatale sull'Hudson, sospesi 2 controllori di volo. Bossi a Ponte di Legno insiste, sì a dialetto, a scuola e gabbie salariali. Inflazione impicchiata in Eurolandia, i dati sono più bassi di quelli previsti. Italia un paese in prestito, famiglie indebitate in media per 15.000 euro. Il ministro La Russa con i carabinieri dice l'attacco di Bocca è farneticante. Buccaneer, parlano i marinai, finalmente a casa, i pirati ci maltrattavano. Si infittisce il mistero del cargo scomparso, forse avvistato a Capoverde. Ferragosto promette bel tempo per il ministro Brambilla, il turismo tiene. Super Enalotto, domani niente estrazione, milioni le giocate a far festa e l'erario. Pennetta al match point con la storia, se vince oggi entra nella top 10. Ho paura che ormai solo con gli interessi l'erario si fa ricco. Allora ho il telefono Filippo Facci, abbiamo dato già la notizia del giorno, vedo che anche i TG ci puntano, la polemica nei confronti di Giorgio Bocca che ha accusato pesantemente l'arma dei carabinieri. Facci oggi ha titolato un articolo al vetriolo sulla prima pagina del giornale. Come mai, Facci? No, io non l'ho titolato niente, come sappiamo. Scritto. Sì, poi talvolta i titoli, insomma, danno talvolta degli accenti che uno ha cercato magari neppure di mettere, insomma. Ah, allora è una presa di distanze, era un pezzo molto sobrio e composto nei confronti di Bocca, no? Diciamo che Telese sa più di altri che magari noi giornalisti ci impegniamo per star lì con sfumature, accenti, distinguo, sì, però... Boom, poi arriva la mannaia. Non so se è capitato anche a Telese, ma sicuramente a tanti altri giornalisti che quasi quasi ti dicano il titolo che devi, prima del pezzo che... Sempre, scrive. Guarda, il titolo è questo, adesso scrivi il pezzo, è un classico. Tu magari scrivi una cosa completamente diversa e loro manco, cioè loro ti dicono uguale come ce l'avevano in testa. Questo non per negare, attenzione, che abbia scritto un pezzo molto duro nei confronti di Giorgio Bocca, però per spiegare che io a mio modo ho una particolare ammirazione per Giorgio Bocca, cioè... Giorgio Bocca è un giornalista anzitutto anziano, un decano, tutte queste cose che si dicono sempre, insomma, e che si ama e si odia nella stessa misura e che diversamente da altri... Tu sei un grande estimatore, per esempio, di uno dei suoi libri, io lo so, Il Provinciale. Assolutamente. Che sostieni che è uno dei più bei romanzi italiani. Questo magari autobiografici. No, però insomma è bello, è ruvido, è vero, perché Bocca comunque è vero, scrive di getto, scrive velocissimo, cioè poi gli devono anche spesso mettere le virgole a posto perché appunto scrive insomma in una maniera molto vera, non è curato, non è insomma curiale. Vabbè, ma andiamo al sodo, questo pezzo in cui dice che i carabinieri sono amici dei mafiosi. Il sodo che uno arriva a 80 e passa anni e spesso scrive di getto magari delle cose che se sono riferite insomma al mondo tecnologico che non riconoscono più diventano dei documenti bellissimi insomma sul ritardo culturale. Se si mettono a scrivere di mafia, di argomenti che non hanno mai capito bene da giornalisti spesso generici, sui carabinieri e citano alla rinfusa e Camilleri e Sciascia e Borsellino, che tra l'altro litigò con Sciascia e lui forse non se n'è accorto, e Orlando addirittura come uno che insomma sollevò dei problemi che non sono stati risolti quando insomma invece fu quello che costrinse Giovanni Falcone a difendersi davanti al CSM, e fa insomma un grande minestrone citando a caso sue e proprie impressioni sul fatto che i carabinieri, se non altro per una forma insomma di teorema, non possono non essere stati conniventi con un certo sistema mafioso insomma della Sicilia, se si mette a fare questo a 80 anni viene da pensare insomma che insomma è stata una giornata storta. Magari gli fosse andata diversa la giornata avrebbe scritto un altro articolo, però certe cose non si possono fare perché uno manco se ne accorge insomma di toccare dei nervi scoperti. Credo che sia stata del danno che fa. Sì, perché attenzione, spesso dire cose vere, dire cose assolutamente che non vanno dette o false, cioè, come posso dire, sono mondi molto confinanti, cioè, se Bocca volevo dire che c'è sicuramente stato un sistema genericamente in cui tutto ha convissuto con tutto e quindi la mafia e la stessa società civile inesistente e quindi magari certe forze dell'ordine e certi, perché no, ecclesiastici e la stessa stampa, insomma, facenti parte di uno stesso sistema a suo modo connivente, ecco, dire questo e cercare di storicizzarlo è diverso da svegliarsi a metà agosto del 2008 e scrivere bello bello che insomma i carabinieri erano conniventi e lo sono ancora perché ha scritto questo. Di fatto ha trasformato quello che ha detto il figlio di Ciancimino e ha orecchiato, come si chiama, non me lo ricordo mai, Totò Riina, sul fatto che ci sia stata una trattativa negli anni 90 tra Stato e mafia, certo. lui l'ha trasformata immediatamente in un fatto acquisito, no? E quando invece hanno fatto un sacco di inchieste, c'è Antonio Ingroia che non so più quante ne ha fatte su questo presunto su questa presunta trattativa, e di fatto, perché noi sui fatti e sulle carte dobbiamo basarci, di fatto non c'è stata per ora nessuna trattativa su niente. Allora, si imbattisce un pezzo. Grazie, fermo un attimo Filippo Facci, che ci ha dato, come dire, un punto di vista giornalistico. Da Nando Dalla Chiesa, che ha scritto anche un bel libro quest'anno per l'Einaudi, un album di famiglia fatto di racconti, di frammenti di memoria, ma anche di autobiografia e anche della figura di suo padre. Volevo chiedere, lui che sulla sua scrivania a Montecitorio teneva il fermacarte dell'arma, come ha preso questo articolo di Bocca? Ma anch'io come un'uscita infelice, è è quasi un andare contro una realtà storica. Io capisco che Bocca volesse dire c'è una coesistenza tra lo Stato e la mafia, soprattutto in certi periodi, però i carabinieri non possono essere inseriti come una spina dorsale di questo rapporto di coesistenza, perché non dimentichiamo poi le parole e le culture parlano più di ogni altra cosa, e quando si usa il termine sbirri per parlare dei carabinieri si dice con molta chiarezza che fanno parte di un mondo contrapposto al proprio. E non soltanto gli uomini di Cosa Nostra usano il termine sbirri, ma come hanno dimostrato alcune indagini, anche esponenti politici vicini alla mafia, nelle loro telefonate parlano degli sbirri. Quindi più antitetici di così mi sembra che sia difficile trovare il rapporto tra l'arma dei carabinieri e la mafia. Poi la questione della trattativa è, secondo me, è tutt'altro, perché Bocca parla della storia dei carabinieri sul territorio. Ecco, quella storia è una storia di difficoltà, di sacrifici, di indagini, spesso mortificate nei tribunali, spesso mortificate in sede politica. Tra l'altro credo che anche persino il protagonista della Civetta fosse, del giorno della Civetta, fosse un carabiniere, no? Il Bellodi. Il capitano Bellodi, ecco, lì in quel caso. Modellato anche sulla figura di suo padre dalla Chiesa? Dunque, Sciascia inizialmente fece capire di sì, dopo la sua morte gli disse che era il colonnello Candida a cui si era ispirato, che era un ottimo ufficiale dei carabinieri. Però in quel caso noi vediamo un'Italia anche abbastanza antica, un'Italia rurale, il capitano dei carabinieri dialoga con questo capomafia, cerca di cogliere la realtà e alla fine è costretto ad andarsene. Oggi la situazione è molto modificata perché sono saltati anche alcuni ambiti di comunicazione che comunque prima c'erano, che non vuol dire coesistenza. Adesso è impensabile che possa esserci un dialogo tra un esponente dell'arma e un capo mafioso in sede locale. Quindi credo che si debba anche tenere conto del fatto che la realtà è cambiata, che questo rapporto di coesistenza si è molto indebolito grazie soprattutto a nuove leve di investigatori e di magistrati, ma io non credo davvero che noi possiamo guardare retrospettivamente o tantomeno oggi alla storia dell'arma come una storia di coesistenza. Ripeto, se poi si vuol tirare in ballo la vicenda del bandito Giuliano o la vicenda del Pappello, sono vicende che sono estranee al funzionamento normale dell'arma dei carabinieri. Ma ci fu quella trattativa secondo lei o no? Il Pappello di Riina con le condizioni allo Stato? Perché rischiamo di alterare il senso di questo dibattito. Quella trattativa, se c'è stata, è stata richiesta politicamente, non ha coinvolto, attenzione, questo è cruciale, le strutture del comando territoriale dei carabinieri in Sicilia, che hanno continuato a svolgere la loro attività e a cercare Totò Riina e a cercare Bernardo Provenzano. Se ci sono state dei tentativi di trattative vere e proprie, queste si sono svolte al di sopra dei comandi territoriali dei carabinieri e hanno seguito delle vie molto segrete e riservate. Quindi uno dei tanti affari è stato Facci. Si può dire che questi spesso i glorificati maestri di giornalismo, insomma, non lo sono poi così tanto come si cerca di far dire? Ci sono vecchiaie belle e brutte, ci sono anche schizzi di rancore o di umore che colorano queste carriere? E dunque, anzitutto vorrei dire il numero 33, che non c'entra, ma è il numero dei carabinieri ammazzati dalla mafia negli ultimi decenni. Così, era per dire un numero che prima ci eravamo dimenticati. In secondo luogo, io sono un po' a disagio nel generale nel mettermi a dare pagelle a persone di una certa età che comunque hanno alle spalle una certa carriera. E non è, voglio dire, una premessa pelosa per poi mettermi a parlare male della carriera di Giorgio Bocca, eccetera, eccetera. Sicuramente mi permetto di dire questo, che insomma anche il giornalismo è passato alla Seconda Repubblica e non è detto che tutto questo equivalga a un male. Cioè, anche una volta esisteva una maniera di essere giornalisti, come posso dire, polivalenti, onnivori e talvolta non specialisti, che talvolta magari, ecco, tramite un paio di viaggetti al sud scrivevano un libro, facevano un'intervista o due e magari, ecco, si permettevano di formulare un giudizio su fenomeni difficili da comprendere, che magari poi congelavano per poi esprimerli identici 30 anni dopo. Credo che sia quello che è successo nel caso di Giorgio Bocca, che comunque è andata esattamente come avevi detto, hai fatto una premessa, diciamo, politicamente corretta e poi hai dato due stoccate fenomenali. Ma è quello che ho scritto anche sul giornale, cioè io credo che Giorgio Bocca avrebbe fatto lo stesso, nel senso che questo è ottimo. Ho il telefono ancora Nando alla Chiesa, a cui volevo chiedere di raccontarci una scheggia del suo bellissimo libro. L'ho letto qualche tempo fa, ma uno dei racconti che costruiscono la costellazione di questo romanzo di lessico familiare è la storia di un anello. La possiamo raccontare dalla Chiesa? Beh sì, anche se mi viene un po' complicato. Comunque è la storia, è l'anello di dalla Chiesa, quello che aveva mio padre, che non pensavo mai di dover indossare e di volere portare addosso, perché era molto, molto grande. Quando io ero ragazzo, e poi mi è stato consegnato quando, dopo la sua morte, con un colore diverso, perché era un colore rosso bruno, era macchiato del suo sangue, ecco. E poi fu mia moglie a evitarmi di vederlo sciogliersi sotto l'acqua, e me lo porto come testimonianza di quello che è accaduto, come impegno anche. Cosa c'è su questo anello? C'è lo stemma dei dalla Chiesa, c'è una chiesa e una corona con 5 punti. E volevo anche dire questo, però, perché un po' mi sento in dovere, proprio per ragioni biografiche, autobiografiche, che è stato a Giorgio Bocca che mio padre ha fatto una intervista prima di essere ucciso, una delle sue pochissime interviste, e di vedere Bocca, anche perché non era un giornalista a lui vicino, ecco, un giornalista che era stato spesso critico nei tempi della lotta al terrorismo, molto preoccupato della salvaguardia delle garanzie, e mio padre volle incontrarsi con lui, e devo dire che Bocca non solo fece un'intervista molto bella, ma poi continuò a difenderlo per anni, in ogni occasione in cui ha potuto. Poi credo che possa capitare, ecco, anche per le ragioni che diceva Facci, di scrivere un articolo infelice che va un po' anche contro la storia di un impegno che, anche se non è stato sul campo, però intorno a certi simboli proprio dell'Arma dei Carabinieri ha saputo difendere un senso dello Stato e della legalità. Questo volevo dirlo perché ho un rapporto di gratitudine, come si può capire, proprio per queste ragioni. Senta, le volevo chiedere una cosa, ci sono state molte fiction sulla storia di suo padre, la fiction aumenta la celebrità, il consenso, però anche astrae i personaggi, in qualche modo li proietta in una luce agiografica. È vero che l'ultimo anno di suo padre fu un anno amaro, cioè di solitudine nella lotta contro la mafia? E lui purtroppo non fu un anno a Palermo, ma soltanto 100 giorni. Ah sì, i famosi 100 giorni, sì. È stato un periodo molto difficile, testimoniato anche del suo diario. Purtroppo, ecco, questo torna un po' alla polemica, lui si sarebbe fidato in particolare di alcuni ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri che non riuscì ad avere, perché c'era una lunga storia dell'arma in Sicilia nell'impegno contro la mafia. Questo io lo ricordo anche in quel libro, dove dalle indagini sull'assassinio di Placido Rizzotto fino alle indagini degli anni 60 annullate di fatto dalle sentenze di assoluzione per insufficienza di prove nei tribunali calabresi e pugliesi, noi troviamo, ecco, la conferma dell'impegno dell'arma. Il comando generale ha fatto benissimo a ricordare il numero dei morti. Io penso che lo stesso numero dei morti non riesca a rendere conto della costanza e della difficoltà di un certo impegno, perché bisogna mettersi nei panni di un sottufficiale dei carabinieri, che certo può avere paura a stare in un comune dove si trova in inferiorità numerica e dove si scontra con l'omertà della popolazione, ma nonostante queste condizioni difficili, ecco, l'arma ha svolto un'azione di contrasto delle organizzazioni mafiose di cui può e deve andare fiera. Bene, grazie a Nando Dalla Chiesa. Il suo album di famiglia dell'Enaudi è uscito da poco tempo, ma e quindi si trova facilmente in libreria. Al telefono dall'arma alle carceri, Rita Bernardini. I radicali sono sempre sul piazza anche nei giorni di ferie e questa volta si sono dedicati addirittura a un tour carcerario. Buonasera. Sì. Buonasera, ma L'abbiamo sorpresa innanzitutto? La cosa in questo momento sono ritornata in sede. Ah, vabbè, allora non è vero che andate nelle carceri. Però stamattina sono stata a Regina Coeli e nel pomeriggio abbiamo visitato il carcere minorile di Casal del Marmo. No, voglio sottolineare che sì, è stata promossa da noi radicali, però la cosa che mi sembra veramente importante è che hanno aderito deputati, senatori, parlamentari europei, consiglieri regionali di tutti gli schieramenti politici, di tutti i partiti politici di maggioranza e d'opposizione. Credo che questa sia la cosa importante perché, insomma, se è vero che la civiltà di un paese si misura un po' da come sono tenuti i detenuti nelle carceri, in questi tre giorni ci faremo una ricognizione che sarà molto importante per le decisioni che dovremo prendere per far ritornare nella legalità costituzionale le carceri italiane. La cosa che l'ha colpita di più di ciò che ha visto, che conosce bene della realtà, l'ingiustizia più grossa delle carceri oggi? Ma l'ingiustizia più grossa credo che sia quella per i detenuti, per esempio di Regina Coeli, di essere costretti a stare in cella per 20 ore al giorno in completo ozio, senza poter fare alcun tipo di attività, senza poter lavorare, senza fare niente, cioè hanno solamente la televisione, l'attività è la televisione. E nelle 4 ore d'aria che hanno a disposizione, ecco, 2 di queste ore d'aria si svolgono in un cortile di cemento sotto il solleone, perché si svolgono dall'1 alle 3. E poi chi ci va in carcere? Perché poi alla fine la popolazione carceraria è anche spesso fatta di persone, no? I ricchi in questo momento, chi ha avvocati, chi ha un livello culturale forte, si può difendere dal carcere, no? Quello che lei dice credo che sia dimostrato dai dati delle prescrizioni, perché noi abbiamo in Italia un arretrato di 3.200.000 processi penali e di questi ogni anno ne cadono in prescrizione per decorrenza termini ben 140.000. Quindi quando sento alcuni deputati, senatori, politici che urlano contro l'amnistia e l'indulto, cioè non si rendono evidentemente conto che c'è un'amnistia strisciante della quale nessuno si assume la responsabilità. E selettiva però, perché chi ha un buon avvocato può tirare in lungo il processo e quindi farlo cadere in prescrizione. Evitare la galera. Chi c'è in galera? Chi hai visto oggi? Quali sono le fattispecie di reato? Ma intanto molti sono in galera per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, diciamo violazione dell'articolo 73 della legge sulla droga. A Regina Coeli su 880 detenuti oltre 460 sono tossicodipendenti, già questo credo che sia un dato eclatante. Uno su due. Esatto. E poi abbiamo. Ma in quanto tossicodipendenti sono andati in carcere? No. Cioè, voglio dire, per reati connessi alla droga. Reati connessi alla droga. Noi sappiamo che. Lo spaccio. Ma anche la detenzione anche per uso personale. C'è anche quello, certo in misura minore, ma c'è anche quello. Se pensiamo che, per esempio, in Italia si va in galera e dobbiamo pensare che ci dovrebbero essere anche misure alternative al carcere, no? Si va in galera se qualcuno, e io sto raccogliendo una documentazione poderosa, se qualcuno coltiva sul suo davanzale una piantina di marijuana. Certo, e magari non ci si va per qualche bancarotta fraudolenta. Esatto, esatto. Questa è la realtà italiana. Grazie Rita Bernardini. Grazie. Il suo giro per le carceri è comunque una di quelle cose utili non solo a chi è in carcere, ma anche a un paese che si vuol dire civile. Arrivano i vostri SMS, ma perché date voce a uno come Facci? Sto ancora vomitando. Facci è bravo. Poi addirittura bocca di M, e non voglio dire che cosa. Ah, questo è carino. Caro Telese, che stimo anche se di sinistra, ma vogliamo finire di santificare i politici di sinistra? Certi sono anche peggio degli altri. Mau, allora caro Mau, nessuno di noi è dedito alla santificazione dei leader di sinistra, anzi pensavo che si cogliesse il fatto che Bertinotti abbia festeggiato la vittoria dell'INSE dalla Costa Azzurra con tartufi e champagne. Mi sembra una di quelle cose che dovrebbe consigliare a Bertinotti il ritiro definitivo proprio dal pianeta, non dalla politica. Allora sentiamo le vostre chiamate. Pino da Milano. Buonasera. 824-0024 per intervenire gratis, 349-238-6666 per i vostri SMS. Buonasera. Prego. Buonasera. Siete? Sì, sì. Pronto? Allora, io mi chiamo Pino, ho 70 anni circa, perciò la storia di Bocca la conosco molto bene. Volevo appunto dare un mio pensiero sull'articolo, che quando l'ho letto mi ha letteralmente disgustato. Questo è normale, chi la pensa come lui. Poi grazie a Facci stamattina mi ha un po' sbollito la rabbia, perché ho sentito un bellissimo articolo. Volevo fare una provocazione, se mi consente, un po' cattivella. Me la posso fare? Prego, prego. E qua la zanzara è il regno dei cattivelli, vi vogliamo allora, molto cattivelli. La mia proposta è questa. Visto che la Chiesa mette a riposo i cardinali a 80 anni e non fanno più vita sociale, oppure non so io che cosa, non si potrebbe mettere i giornalisti a un certo punto, i novantenni, a riposo, con tutto rispetto per la sua storia, per carità, nulla da dire, insomma non ce la facciamo più con questi novantenni, Scalfaro, Sartore e quant'altro, cioè vogliamo gente giovane. Io sono un progressista giovane, voglio la gioventù che mi faccia cambiare opinione. Ha ragione Pino, però non lo farei per legge, perché vede, Montanelli fino all'ultimo è stato lucidissimo e bisognerebbe mettere in pensione solo quelli un po' andati. Però visto che stiamo parlando e nessuno ha sentito, diamo voce a questo pezzo di Giorgio Bocca. E i carabinieri, specie quelli che arrivano da altre province in Sicilia, sanno che la loro vita è appesa a un filo, che un colpo di lupara può raggiungere in ogni vicolo, in ogni tratturo. Non è naturale, obbligatorio dunque, che si creino delle tacite regole di coesistenza e di competenza. Quindi questo è il messaggio dell'articolo intitolato Quanti amici a Totorrina. Grazie Pino, lei resti in servizio attivo perché a 70 anni la sento molto molto giovane. Sentiamo Nicola da Verona. Sì, buonasera Luca. Innanzitutto mi voglio complimentare con lei per la conduzione della zanzara. Grazie. E niente, io volevo spostare un attimino il tiro sull'articolo di Giorgio Bocca, perché nessuno vuol mettere in discussione il sacrificio degli uomini dell'arma, dei carabinieri, nei confronti della lotta alla mafia, all'andrangheta, alla camorra, perché è una cosa sulla quale nessuno può dare contro. Però il tiro lo volevo spostare nel senso che probabilmente, frutto magari questo articolo di un caldo estivo che avrà dato anche un po' di problemi, però non lo volevo difendere, ma mettere l'accento su degli episodi cruciali che ci sono stati in Italia, nella nostra storia attuale, dove ci sono delle grosse zone d'ombra. E volevo citare la scomparsa dell'agenda del dottore Borsellino, la scomparsa degli appunti di Totò Riina dopo che i RIS entrarono nel suo covo, e la scomparsa degli appunti, delle agende del generale dei carabinieri, scusi l'apsus, dalla Chiesa, dopo che lui fu ucciso. Cioè, se l'arma dei carabinieri realmente, non parlo degli uomini che vivono la battaglia quotidiana e la convivenza forzata nelle strade con certi esponenti malavitosi, ma se l'arma dei carabinieri vuole essere realmente pulita, dica dove sono finiti questi documenti. Probabilmente c'è stata una volontà politica che ha influenzato certi vertici, capito cosa voglio dire? Ecco, al di là del sacrificio quotidiano che i carabinieri fanno per la lotta della per affermare la legalità nel nostro Stato. La ringrazio. Grazie Nicola, grazie anche dei complimenti, continua a seguirci, 800 24 0024 per i vostri interventi, le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per gli sms che continuano ad arrivarmi, lavoro di fianco al carcere di Ivrea, proprio oggi, da questa mattina e ancora adesso, e ho atto una rivolta terribile, si sentono urla e rumori terribili, Gianni. Questo è una notizia in diretta, non sappiamo come verificarla, però è una testimonianza. Allora sentiamo Loris da Padova. Sì, buongiorno, mi sente? Sì, forte e chiaro. Sì, io intervengo a proposito della questione dialetti. Beh, intanto sarebbe un po' scorretto chiamarle dialetti quelli che... Ah, una questione di cui parlavamo ieri, eh? Guardi, io ho parlato con la sua redazione 40 minuti sì, che no, tempo. No, no, va benissimo, no, era una battuta, solo non finisce mai la questione dei dialetti. Secondo me deve ancora iniziare, perché le spiego, c'è un obbligo giuridico del Consiglio d'Europa, cioè una di quei trattati internazionali, che obbliga l'insegnamento nelle scuole delle cosiddette lingue regionali. Le faccio un esempio, per esempio la lingua veneta è stata riconosciuta dalla Regione Veneto nel 2007, per cui sussiste l'obbligo di insegnarla a scuola al pari della lingua nazionale, diciamo così. E quello che Bossi non dice è che noi abbiamo imposto attraverso un ricorso, parlo di 1100 persone che sono andate a Strasburgo, al famoso Tribunale dei Diritti Umani, perché di questo si tratta, abbiamo imposto l'insegnamento chiedendo l'applicazione di questa legge, per cui è una mistificazione parlare di dialetti invece di lingue e dire che è una volontà della Lega quando è un preciso obbligo di legge che noi abbiamo imposto, come abbiamo imposto per esempio la questione dei giudici che abbiano una identità legata al territorio, perché noi abbiamo il diritto come popolo veneto riconosciuto dalla legge 340 e 71, il diritto a giudici imparziali, cioè di nazionalità veneta. C'è una io questa, mi perdoni, ma questo sillogismo imparziali dunque veneti mi sembra un po' azzardato. Abbiamo appena raccontato la storia di Nanno dalla di Carlo Alberto dalla Chiesa, che è andato in Sicilia. La cosa che salva questo paese è che uno, e che per fortuna le carte si mescolano sul territorio. Questa è la mia opinione. Pronto? Mi sente? Sì, prego. Sì, sì. Guardi, io ho dimostrato che nel 46, non avendo votato Istria, Dalmazia, che erano cittadini italiani, come Pordenone, Udine, una gran parte del nord-est, il referendum del 46 non è valido, per cui c'è tutto da discutere sull'unità d'Italia, così come il plebiscito... Ah, quindi lei addirittura dice che non è valido il referendum del 46 e che mette in discussione l'unità d'Italia, vabbè, capita... Lo dice un magistrato anche adesso, io lo dico da 2 anni, ma un magistrato ha recentemente pubblicato un libro che invalida il presupposto giuridico, così come una sentenza della magistratura del 2000. Guardi, c'è qualcuno che ha anche scritto che i forni crematori non sono mai esistiti. Comunque sa che le dico, facciano le fiction in dialetto, non le vedrà nessuno, secondo me neanche i veneti che si fanno due palle così, scusi il termine. Che riconosce questi fatti del Tribunale di Venezia del 2008, e lei può verificare che cercando difetto assoluto di giurisdizione Venezia 2008 troverà che noi abbiamo un territorio che non è sottoposto alla giurisdizione come una base americana. Con ciò non vuol dire che noi vogliamo necessariamente essere uno Stato indipendente, dipenderà un po' dai veneti, ma che abbiamo dei diritti precisi come un giudice imparziale, questo sì. È una infatti, il giudice imparziale... possibilmente siciliano, così almeno non è dentro le implicazioni del territorio. Questa è una mia opinione. Allora sentiamo Lino da Genova. Pronto? Sì. Allora, io volevo fare un altro tipo di intervento, però voglio aprire una piccola parentesi, giusto con l'intervento precedente. Io abito in Liguria, a Genova, faccio il tassista, no? In questo periodo siamo invasi dai padani. Ma non se ne potrebbero stare a casa loro e a romperci le scatole qua, che abbiamo un sacco di traffico, traghetti che non si riescono. No, ma sia contento perché portano soldi, però ecco, no, l'Italia no, no, è una. Noi i soldi ce li abbiamo, non abbiamo bisogno dei soldi, da ognuno a casa sua, che parlino ognuno la loro lingua, che non ci vengano a rompere le scatole delle belle barriere. Ognuno faccia le vacanze a casa sua, ci stanno bene. Scusi, una domanda, ma i genovesi non sono il popolo più generosamente aperto al mondo, al mare, alla diversità? Ma è vero, difatti c'è un vecchio detto genovese che dice: "De senesi che siamo rimasti in tre, mi un Napoli o Calabria". L'ha capita? Siamo rimasti in tre, io, un napoletano e un calabrese. Io e quello soprannominato Napoli e quello soprannominato Calabria. Certo. Ecco. Certo. Però, chissà perché, non certo perché erano di Spezia. Esatto. Vabbè. Senta, qui ci vuole, sa che cosa ci vuole? Ci vuole un frammento di De André, ci vuole un Creuza De Ma da mettere subito, un lampo, e mentre lei continua a parlarci, ci dica cosa voleva raccontare. No, io volevo adesso, facendo un discorso molto più serio, ieri sera ho sentito l'intervento, credo, del fotografo Zappadu. Ecco, Zappadu. Ecco, che ha detto che adesso a settembre salterà fuori un altro scandalo su Villa Certosa, su queste cose delle escort, no? E io, non so lei, ma io sono rimasto impressionato, perché in Italia abbiamo giudici, opposizioni, forze dell'ordine. È possibile che certe cose ce le tengano nascoste fino a che loro non decidono che debbano uscire fuori? Io mi sono sentito raggelare il sangue, perché ho detto: in che mani siamo? Ha visto? Guardi, siccome non sappiamo che cosa salta fuori, non sappiamo chi bleffi e chi no, noi siamo qui a riportare le notizie. No, no, no, ma per carità. Non prenda tutto per ore colato. No, assolutamente. Però è una cosa che mi ha messo angoscia. Angoscia? Si figuri, angoscia anche me. Allora volevo farle sentire un frammento. Lei ama De André? Amava De André? Sì, lo amo, però prima che ci salutiamo sì. vorrei dire una cosa. Luca non ce la sa. Cioè, in che lingua è? Se lo ricorda gli amici che andavano a ritrovare Pipino disperso in Africa, no? E che sì. Alla fine c'erano gli indigeni che dicevano: "Titi non ce la sa, Titi non ce la sa". Ecco, vabbè, allora... non ce la sa. Vabbè, no, invece tornerà a Cruciani e sarà bellissimo. Grazie, sentiamolo allora questo frammento che abbiamo pescato. Ombre de muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, densi tu du vali, a se mostrani. E a neta na punto, o cotelo agu. E a monta la, seu gueres todio. O diao lense, o segue é feto ninho. Ne shurtimo da uma, peixe vai o se da odria. A fontana de cumbi, taca de pria. Grandissimo, De André. Ci voleva una spruzzata dei colori di Genoa, grazie anche a questo ascoltatore del mare, questo odore e questa bellissima copertina, e forse immaginerete la Casa Bianca sotto il cielo azzurro. Amelia da Napoli. Pronto? Pronto. Pronto. Eccoci qui. Forte e chiaro. Ok, senta, io invece volevo dire, almeno io ho letto l'articolo di Bocca, perché è un giornale che leggo tutte le settimane. L'Espresso. Oddio, adesso tutti contro Bocca, diciamo, l'età è questa che è. Io lo leggo tutte le settimane, quindi vedo in lui adesso un uomo arrabbiato per l'Italia che stiamo vivendo adesso. Non mi dica che lei va bene questa Italia. Ma guardi, a me può non andare bene questa Italia, stiamo tutti i giorni a parlare di questa Italia, a scavare nei difetti, però mica me la piglio con i carabinieri che rischiano la pelle per 1500 euro al mese. Non facciamoci, cioè... adesso tutti siamo fanti, tutti siamo onesti. No, siamo no, onesti. Ma le sembra, ma scusi, ma in questo momento le sembra che uno sia... Perché c'è... Scusi, ma perché se uno è arrabbiato per come va l'Italia se la dovrebbe prendere con i carabinieri? No, cioè questo no, mi sfugge il meccanismo. Io non do ragione. ragione a bocca adesso. Perché tempo fa scrisse un articolo contro Napoli che fu durissimo. E un libro anche. Quasi odiai bocca, però leggendolo aveva ragione. Perché Napoli è quella, non ci sono dubbi. Napoli diventerebbe bella senza i napoletani. I napoletani dovrebbero andare via tutti. Lei di dov'è? Io un altro popolo. Lei di dov'è? Scusi, Amelia. Rifiorisce. Perché il buon di Napoli sono i napoletani. Ovviamente. Lei di dov'è, Amelia? Signora Amelia, lei dov'è? Sono arrabbiata con la mia città. Ho capito, quindi anche lei se ne dovrebbe andare. Allora guardi che bello questo gioco degli scambi di identità. È arrivato un messaggino che dice: sono veneto e voto Lega, ma questo qui è scemo. Ale, credo che si riferisse, ma non sia mai, all'ascoltatore precedente. Allora signora Amelia, lei dove vorrebbe andare se potesse mirare? Non voglio parlare male subito di una persona, ovvio, a una certa età, d'accordo, avrà i suoi momenti, diciamo di così. Però poi il giornalista, oddio, poi non parliamo del giornale, mi perdoni, che fa dei titoli che sono proprio la crema del giornalismo, perché il titolo è tutt'altro che magari un buon giornalista ti scrive un articolo, però con quel titolo io non lo leggo. Il titolo del pezzo di bocca era abbastanza. Una persona di... oddio. Io per me, guarda, ci sono articoli belli, articoli meno belli, articoli che ti fanno capire, perché è importante che un giornalista ti... Ho capito, vabbè, la signora Amelia ha espresso bene il suo pensiero, ha anche mosso questa trasmissione. Sentiamo Alberto da Roma. Pronto? Sì. Pronto, buonasera. Buonasera. Io chiamo a proposito delle esternazioni dell'onorevole Bossi, dialetto griglie e grigliate e quant'altro che a Ferragosto... Gabbie, non griglie. Dunque... Le griglie salariali sono interessanti. Relativamente ai dialetti, fatto salvo Dante Alighieri, poi l'abbiamo studiato tutti, Alessandro Manzoni, che non mi pare nato né in provincia di Crotone, in provincia di Napoli o di Palermo. E quindi mi sembra strano questa posizione da parte di un lombardo. Il dialetto l'hanno voluto i lombardi, sostanzialmente la lingua italiana è stata fondata, almeno quella moderna, da un lombardo. Secondo, l'Unità d'Italia l'hanno fatta genovesi e piemontesi e siciliani che li accolsero come liberatori. E in ultimo le gabbie, e i bergamaschi, i mille erano molti bergamaschi. Vogliamo mettere i fratelli bandiera che venivano dal Veneto? Appunto. A proposito di quel signore che ha telefonato poc'anzi, dunque, in ultima considerazione sulle gabbie e griglie, è vero che forse il costo della vita al nord è più alto, ma è altresì vero che nel centro-sud molto spesso c'è un solo stipendio in una famiglia. Allora non si dovrebbe fare il ragionamento del reddito pro capite, ovvero persona addetta, ottima, ma il ragionamento idea del reddito del nucleo familiare. Ottima idea, sentiamo i titoli del TG1 e ringraziamo Alberto da Roma per questo intervento. Lo scontro aereo sul Lazio, in un video amatoriale, sospesi due controllori di volo a Bologna, i funerali di due delle vittime. Inflazione, calo record in Europa, meno 0,7% a luglio, dice Eurostat. In Italia i prezzi scendono dello 0,1%. Perquisizione e controlli nel ghetto di Milano, spuntano anche una mitraglietta, 20 proiettili e il silenziatore. A Garlasco tutti in coda per l'acqua miracolosa, l'ASL la fa analizzare e si scopre che è piena di pesticidi. È un giallo internazionale la scomparsa di un container carico di oro e dollari, partito dall'Iran, sarebbe stato sequestrato in Turchia. Ferragosto col sole, ultime partenze dalle grandi città, sempre più numerosi gli italiani che scelgono la vacanza last minute. Ecco, erano effettivamente i titoli del TG. Allora stiamo continuando questa giornata di discussione e abbiamo in linea Francesco Storace. Buonasera. Buonasera, buonasera. Che combina il leader della destra? È in vacanza. Dove? Come buoni italiani. Dove? Quelli che possono farlo, è in Sicilia, a Capodorlando. Ah, ecco, perfetto. Allora, avevamo appena sentito Rita Bernardini che dice che la condizione delle carceri è drammatica, ci stanno soltanto o soprattutto quelli che sono in carcere per i reati connessi alla droga. Volevo chiedere, lei che sostiene le ragioni della destra, che cosa pensa di questo problema? Guardi, io Io su questa questione proprio oggi ho scritto un editoriale sulla destranews.it, il nostro giornale telematico, che riguarda quello che succede nelle carceri. Io non vorrei che lui da Bernardini e quelli che la pensano come lei vogliano preparare una stagione di sensibilizzazione verso nuovi indulti, nuove amnistie. La realtà è molto semplice, le carceri italiane possono ospitare 40-45 mila detenuti, oggi ce ne sono 65 mila, bisogna tenere presente che 25 mila sono stranieri. Allora cominciamo a far sì che Alfano passi dalle parole ai fatti, perché a ottobre scorso promise che avrebbe avviato i rapporti, le convenzioni con i paesi, convenzioni bilaterali con i paesi da cui gli emigrati provengono, perché è giusto da offrire il pane a chi viene qui per fame, se non per uno il pane viene qui e se lo ruba e viene pizzicato, la pena la deve scontare a casa sua. Risparmieremmo in capienza nelle carceri in quattrini per mantenerli. Senta, e che cosa fa la destra? Cioè, dopo non essere riuscita a superare il quorum, ha quadrato le fila, continua la sua battaglia? Beh, noi intanto abbiamo ridato vita, approfittando del generale Agosto, a tutto l'organigramma del partito, sono pubblici i dati su questi siti, su tutta la dirigenza, perché abbiamo cominciato a ripreparare il partito all'appuntamento l'anno prossimo, si voterà delle regionali, in 15 regioni a statuto ordinario. Io ho riunito il mio organo di vertice, l'esecutivo, e abbiamo alle porte una serie di appuntamenti, prima tra tutti la conferenza programmatica, che servirà a darci un'identità più spiccatamente sociale, che è quella che manca oggi alla politica italiana. E ovviamente ragionando con i possibili interlocutori a partire dal centrodestra, io faccio l'esempio del Lazio, certo partecipare a una coalizione con la nostra autonomia che si prefigga di chiudere la fallimentare esperienza. Quindi dove si può, alleati. Senta, ma si è pentito di non aver fatto l'alleanza con Berlusconi alle politiche? No, Berlusconi non voleva l'alleanza perché pretendeva tre mesi dopo il nostro... la nostra nascita di rinunciare al simbolo, no, di sciogliere il partito, insomma, era venuto lui a benedirlo, però insomma è inutile stare a parlare del passato, bisogna capire che cosa sarà l'Italia di domani. Bene, e invece della Santanchè che vi ha abbandonato, che rapporto c'è ora? Mi fa la domanda di riserva. No, è questa. Ma guardi, devo dire, chi per un'intera campagna elettorale ha accusato Berlusconi di essere l'uomo peggiore del mondo e da 5 minuti dopo la conclusione della campagna elettorale l'ho scoperto come il migliore, insomma. Per carità, mi dispiace per lei, non c'ho malanimo, ognuno fa le sue scelte. Ho capito. Grazie Storace, grazie la destra, lei. Quindi lei è diventato anche un grande blogger, è vero? Beh, in questo momento dicono su Facebook. Anche su Facebook. Quanti amici ha? Gli amici sono oltre 10.000 spazi. Ma no, non si possono avere 10.000. No, su tre pagine. Ha triplicato. Poi sono arrivato in un mese, ho aperto la pagina sostenitori, sono a 3.500. Mannaggia miseria, che mago del addirittura ha triplicato i profili, cioè, questo è il genio italiano. Non ho radio, non ho televisione, non ho giornali, allora internet è lo strumento per avvicinare i cittadini. Allora ci dica qual è il suo status di oggi su Facebook, qual è? Francesco? Adesso io lo dico perché lo sto cambiando. Ci sono dei ghostwriter che lo cambiano. Adesso ho pubblicato una botta e risposta tra la Russia e Bossi. No, ma lo status, ci interessa lo status per capire se non c'è qualcuno che li fa al suo posto questi profili. No, io faccio lo status e la frase, diciamo, no? Chiamiamo la mascette che sta in testa alla pagina. Io lo cambio ogni 5 minuti. E qual è quello di adesso? Quello di adesso è il botta e risposta tra Bossi, perfetto, e la Russia sulle gabbie salariali. Ho capito, va bene. Perché sono frasi che si mettono per far capire, insomma, il caos in cui siamo. Vediamo quanti amici le arrivano da Radio 24. Grazie, passiamo ai titoli del TG della 7. Nuovo drammatico video dell'incidente sul fiume Hudson, costato la vita a 9 persone, tra cui 5 italiani. Sospesi 2 controllori di volo newyorkesi. Al momento dell'incidente uno di loro parlava al telefono con la fidanzata. Da Bologna i familiari delle vittime chiedono giustizia. Voglio sostenere le gabbie salariali e farò una legge sui dialetti. Bossi da Ponte di Legno riapre la ferita nella maggioranza. È colpa del sole d'agosto, lo liquida il ministro La Russa. Intanto Bersani risponde al senatore dai nostri microfoni. Bossi mi vuole segretario, gli piacciono i tipi tosti. Basta pagare una multa e lo stupratore è salvo. In Afghanistan il presidente Karzai vende le donne sciite per un pugno di voti con una legge che le riporta ancora più nel passato. Più bel paese, meno estero, complice anche la crisi, gli italiani scelgono le vacanze in casa. Sono i dati del Ministero del Turismo. Da domani a lunedì, bollino rosso sulle strade per il Ferragosto. Allora, era il TG della 7, da cui abbiamo captato anche una interessante intervista del principale candidato, si dice addirittura sia in testa alle leadership del PD, che cinguetta, ci è sembrato, con Umberto Bossi. Vediamo se riusciamo a recuperare anche il resto. Ciro da Napoli. Oh, ma quanti da Napoli oggi? Eravamo la radio più sentita della Padania, invece vedo che anche all'ombra del Vesuvio, Radio 24, Sì, pronto? Infatti, no, sì, pronto, buonasera. Sì, no, niente, evidentemente insomma, tutti quanti. Quindi lei non è un veneto che chiama con voce contraffatta fingendosi Ciro, è no, proprio è napoletano. È tra parenti Ciro di Portici, diciamo, provincia di Napoli, per cui ecco, forte. Patrono di Portici è San Ciro, quindi più autentico di me non si può, diciamo. Bene. Senta, niente, io volevo fare un attimo una riflessione sulla questione delle gabbie salariali. Ho sentito, diciamo, le esternazioni di Bossi, insomma. Certo, che lei che è un privilegiato del sud. Assolutamente, voglio dire, cioè, non, la vita qui veramente costa un niente. Il problema lascia perplessi, voglio dire, le pressioni che fanno i vari politici su questo dato. Bisognerebbe capire anche quali sono i livelli dei salari, voglio dire, perché sicuramente ci saranno dei salari differenziati realmente tra nord e sud, cioè non è una questione semplicemente di costo della vita. Il problema è che se noi ragioniamo, e questo non me l'aspetto dal ceto politico, infatti da questa vicenda la perplessità più forte, la delusione più forte è proprio relativa alla risposta del mondo politico, tutto quanto. Cioè, ho sentito il dato per il quale il costo della vita al sud è più basso del 16%, ma al di là, diciamo, delle questioni statistiche, quindi magari diciamo qualcosa che attiene semplicemente a come è fatta la rilevazione e tutto quello che ne consegue. Però il vero problema è un altro. Cioè, se io do questo dato come un dato di fatto, che Stato riesco a legittimare? Cioè, perché la differenza salariale, perché la differenza del costo della vita del 16%? Perché magari voglio dire, c'è molto sommerso, perché magari certe cose non si fanno come si fanno al nord. E voglio dire, il ceto politico, comunque chi ci governa, dovrebbe fare questo tipo di riflessione. A che cosa porta? Ok, c'è questo dato, ma a che cosa porta fondare un paese sulla differenza del costo della vita? Cioè, fa bene a tutti oppure non fa bene a nessuno? Io non vedo. Secondo me non fa bene a nessuno, ma vediamo se al Ciro magari resta anche in linea per qualche istante, se Roberto Ciambetti, capogruppo della Lega alla Regione Veneto, riesce a convincerci non solo su questa cosa delle gabbie salariali, ma anche sull'ultima che abbiamo sentito. La Regione Veneto finanzia dei cartoni animati in dialetto, è vero? Io direi in buonasera. Lingua veneta. Buonasera a tutti, buonasera ai suoi radioascoltatori. Direi appunto cartoni animati in lingua veneta, ma fa parte di un progetto più ampio che deriva appunto da una legge che tutela e valorizza il patrimonio linguistico veneto. Quindi è uno dei tanti progetti che vengono, diciamo, finanziati per la regione. Questa cosa è costata circa 25.000 euro, insomma, rispetto ad altre spese che vediamo in altri luoghi non sono poi così devastanti, direi. Senta, io, insomma. Le leggo un SMS che mi è arrivato. Sono Alessio di Verona, parlo perfettamente dialetto, quello degli amici di Adria o di Chioggia mi è incomprensibile. Quale dialetto veneto si dovrebbe insegnare in Veneto? Guardi, io riesco a parlare correttamente il veneto con ad esempio i veneti che sono in Brasile, nel Rio Grande do Sul o in Santa Caterina, o con gli istero-dalmati fino a Perastro in Montenegro, parlo un veneto e c'è un minimo comune denominatore che ci consente di capirci, di mandarci appunto messaggi, di parlare correntemente, di scrivere anche in lingua veneta, quindi non è un grande problema. Il problema invece è quello che stiamo affrontando, è quello di creare una grafia unitaria che invece è indispensabile per poi poter scrivere testi e argomentare appunto situazioni in scritto, diremo. Ho capito, ma posso dirle che secondo me c'è il rischio che veramente questa parcellizzazione delle identità, questa lotta all'idea di nazione possa veramente, come diceva il nostro ascoltatore di Napoli, svantaggiare anche i veneti? Allora, secondo me non è assolutamente una lotta all'idea di nazione e le porto due esempi. Per lei c'è prima la bandiera del Veneto o prima quella dell'Italia? Prima quella del Veneto, sicuramente. Allora, se non è questa una lotta all'idea dell'Italia. Ma senta, ad esempio le spiego. Dico solo una cosa logica. Lei mi ha detto che viene prima il Veneto che l'Italia, mentre invece per me viene prima l'Italia e poi il posto dove sono nato. Mettiamo appunto forse su una scala diversa l'ordine dei valori, però appunto siccome abbiamo una storia direi più che millenaria che ha visto questa bandiera sventolare in tutto il mondo, forse ci teniamo un po' di più rispetto ad altre realtà. Ma le porto due esempi che appunto riguardano la lingua e che non sono esempi del passato ma sono cose che guardano al futuro. Due piccoli esempi. Il Galles. Alla fine degli anni 50 praticamente la lingua gallese era praticamente sparita e la BBC partì con una diciamo produzione interna al Galles per rivalorizzare questo idioma che si stava perdendo. Oggi la BBC Wales è il più grosso centro di produzione al di fuori di Londra e occupa 1200 persone per fare programmi sia in radio che in TV in lingua gallese. Altra cosa che riguarda ad esempio la Catalunya, in Catalunya c'è la TV catalana che appunto ormai da 20 anni fa programmi in lingua catalana e dopo appunto la dittatura franchista dove era vietato parlare in catalano, la Catalunya ha ripreso come lingua ad essere viva e utilizzata e mi pare che Barcellona non sia un posto che guarda il passato ma semmai è una realtà che sta guardando veramente al futuro dell'Europa, quindi non vedo assolutamente alcun tipo di problema per eventualmente l'utilizzo di lingue locali rispetto al futuro dove forse un'Europa delle regioni e dei popoli avrebbe maggiori competitività e maggiori possibilità di competere con i grandi imperi cinesi o indiani che ci stanno massacrando. Il Veneto contro la Cina, auguri. Allora, lei ci sta raccontando della tentazione di essere più competitivi sui mercati globali come Veneto piuttosto che come Italia. Guardi, faccio un piccolo esempio. L'ultimo vertice del G8, il premier cinese prima di tornarsene in patria ha fatto tappa all'Aquila e poi è venuto a Venezia, unica località diciamo italiana toccata con incontri istituzionali. Ci sarà un perché, forse siamo noi bravi a utilizzare un po' Marco Polo e i legami che appunto culturali che con la Cina ci legano da qualche secolo, ma ci sono delle peculiarità che se ben sfruttate a livello locale riescono a produrre anche un volano economico, vuoi turistico, vuoi di carattere industriale che può far bene anche alla nostra economia. No, ma io sono molto contento di aver sfruttato i legami di Marco Polo, cioè mi colpisce questa idea, cioè veramente io percepisco Venezia come parte del mio territorio, del mio paese, sono orgoglioso di Venezia come di Napoli. Lei non è contento di far parte di una nazione dove c'è Napoli, Bari, la Sicilia? Io sono contento di far parte di una nazione che ha veramente molte particolarità e peculiarità che se ben utilizzate potrebbero far bene a tutto il paese. In questo momento quello che noi vediamo è magari... Cioè, ma quindi ha eluso la domanda, cioè non voleva dire che è contento di Napoli, ha paura di perdere voti, sono no? Sono contento di Napoli dopo che è stata risistemata dai rifiuti. Un anno fa dal punto di vista turistico noi avevamo grossissimi problemi a dire agli americani che facevamo parte dello stesso paese, quindi ci sono situazioni che se vanno male a Napoli fanno male anche al Veneto, a Venezia e al Lago di Garda diremo, però sicuramente dicevo ci sono delle cose che se ben sfruttate a livello nazionale fanno bene a tutto. Ma questo siamo convinti. Senta, volevamo farla interloquire con un nostro ascoltatore, un tassista, certo, di Genova, sì, che poco fa ci ha detto ricordatevi che l'Italia l'hanno fatta i patrioti del nord, è così? Pronto? Lino da Genova, sì, volevo interloquire con il capogruppo della Lega alla Regione Veneto. Lo saluta. Salve, buonasera. No, il mio intervento, no, sento un ritorno tremendo. Ah, ecco, no, noi non lo sentiamo. Ecco, vabbè, il mio guardi, non riesco a parlare perché ho l'eco. Allora richiami dopo, grazie, e mi scuso con Roberto Ciambetti, a volte succede con la radio e ci siano questi problemi, e sentiamo un ascoltatore, Francesco da Novara. Io dovevo intervenire su altro, però... No, su quello che vuole. No, le spiego perché volevo intervenire un attimo su Grillo, però vorrei dire qualche cosa all'onorevole Ciambetti. Io in questo momento, per esempio, mi trovo a fare a Stresa, al Logo B, su una serata di canzoni napoletane. A Novara avevo organizzato 2 settimane fa, ci fu il pieno, uno spettacolino che prevedeva poesie novaresi e canzoni napoletane. Cioè, per dare proprio un'idea di un paese composito, un paese che si potesse integrare. Ebbene, le dico, a Novara ho avuto difficoltà a trovare uno che parlasse il dialetto novarese in originale. Allora il problema, no, glielo giuro, se vuole faccio nome e cognome, insomma io quelli della Lega li conosco, sono persone che io stimo moltissimo, tra l'altro faccio i complimenti perché gente si dà da fare, però voglio dire, va bene tutto, ma quando poi la buttata diventa pubblicitaria, cioè facciamo una cosa, se uno che è di Novara capisce bene, c'è una differenza di dialetto tra Galliate e Novara, tra Novara e Vercelli. Adesso non sono un cultore della lingua, però mi chiedo come si possa imporre l'uso di un dialetto affidando a persone, chi è che le certifica? Io invece aderirei a un altro tipo di sollecitazione, che è quella che poi mi ha portato a fare quello spettacolo, è stato molto apprezzato, e cioè fare del dialetto una scelta culturale libera dove si può insegnare i vari tipi di dialetto, ma non imporlo. Allora sentiamo se il capogruppo Ciambetti le organizza una tournée con cantata di dialetto napoletano, di dialetto veneto. Beh, per fortuna in Veneto non abbiamo i problemi che ha il signore che appunto ha avuto a Novara. In Veneto il 70% della popolazione parla correntemente la lingua veneta al lavoro o fra amici, quindi è una cosa abbastanza diffusa. Io peraltro sono in contatto con molte realtà lombarde, ho degli amici di Como che mi mandano dei bellissimi, diciamo, scritti o dei calendari in lingua locale, e quando giro in Lombardia vedo il doppio nome del paese sia in italiano che in lingua locale in moltissime località, quindi probabilmente anche in Lombardia, come ne sono assolutamente sicuro, c'è del patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare. Poi se il signore vuole appunto qualche ragguaglio culturale, lo invito a Cittadella il 5 e 6 di settembre, dove c'è una festa assolutamente culturale che non c'entra nulla con la politica, e che è la festa dei Veneti, dove si fa per 3 giorni, 2 giorni intensi di cultura veneta in tutti i sensi. Bene, allora sentiamo Luisa da Venezia, che quindi è una sua conterranea. Ci parla in dialetto, Luisa, o in italiano? No, io sono trapiantata, sono di origini meridionali. Buonasera a tutti. Buonasera. Io mi fermerei un attimo sull'argomento carabinieri. Vorrei solo fare una precisazione. Credo fermamente nell'arma, l'Italia, la mia patria. Sono valori per me assolutamente da non dimenticare, da non mettere mai da parte. Però per esperienza personale, diciamo, non santifichiamo nessuno. Nessuno è da santificare. E per un motivo, io parlo per esperienza personale. Mi sono ritrovata che ero una ragazzina innocente, piccola. Avevo un ragazzo, carabiniere, che ha distrutto l'esistenza mia, della mia famiglia, di tutti quelli che mi sono stati accanto. Un criminale ha vestito indegnamente ed ha sporcato la divisa, l'abito che portava. Grazie, ci dispiace molto questa esperienza, ma ovviamente, come ha spiegato anche lei, le pecore nere esistono in tutti i greggi. Allora, per concludere con il nostro capogruppo della Lega nella Regione Veneto, volevo chiedere, ma che cos'è questa, di che cosa parla questo cartone animato in dialetto che avete finanziato? Pronto. Uno dei progetti che è stato posto a bando ed è arrivato appunto fra tanti altri. È una, due o tre associazioni culturali si sono messe insieme per doppiare un cartone animato che già sta avendo un grande successo in America. È stato scelto perché parla di cose positive, cioè era facile prendere ad esempio un braccio di ferro e far ridere uno, il bambino con un pugno in faccia all'altro personaggio. Invece questo parla di valori morali, di amicizia, di cose positive, di impegno sociale, che è una cosa che per fortuna in Veneto è molto presente. Quindi sto scelto anche perché è un cartone anche nel resto positivo d'Italia, l'amicizia, voglio dire, è un valore che è presente anche nel resto d'Italia. Assolutamente, però ad esempio il maggior numero di associazioni di volontariato in Italia è in Veneto. No, ma Roberto, ma non ci venga a raccontare queste cose, che in Veneto è la culla della bontà. Scusi, ma io veramente le statistiche, la maggior concentrazione di associazioni di volontariato e di persone impegnate è in Veneto. E quindi lei ha detto che per i veneti l'amicizia è un valore, mentre invece sottintendendo il resto d'Italia meno. Questo cartone animato è stato scelto anche perché ha soprattutto valori positivi. Era facile prendere, che ne so, un cartone animato giapponese con personaggi che si continuano ad ammazzare di botte, invece questa è una cosa positiva rivolta ai bambini, che riteniamo sia giusto che il finanziamento che arriva da un ente pubblico sia anche, diciamo, moralmente sostenibile in maniera positiva. Bene, allora sentiamo, prima di congedarla, che cosa pensa di questa sua testimonianza Lino, il tassista di Genova, che ha detto di essere arrabbiato con i padani. Pronto? Pronto? Sì. Ah, adesso va meglio. L'ha convinta Roberto Ciambetti della bontà? Purtroppo io sono tornato a casa e l'intervento non lo sentì. Okay. Però voglio dire questo: la mia era semplicemente una provocazione. Ma sì, ho capito che era una provocazione. No, ma siccome volevamo chiedere, lei ha ricordato questo fatto che l'Italia unita è stata fatta da patrioti del nord, quindi le volevo chiedere. No, non l'ho fatto io quell'intervento, fatto quello dopo di me. Ah, ho capito, perfetto. Allora niente, ho sbagliato. Va bene, allora la salutiamo, grazie, e salutiamo anche Roberto Ciambetti. Ci informi delle prossime iniziative comunque, perché qui a Radio 24 critichiamo, scherziamo, ma siamo attenti a tutto quello che si muove sul territorio. Le preannuncio che tradurremo Giulietta Romeo, scusi, di Shakespeare in Veneto. No. Sì. Vabbè, come parlavano secondo lei due persone di Verona nel 1200-1300? In inglese o in veneto? Vabbè, ma che cosa vuol dire? Allora, voglio dire, allora Moby Dick è scritto in inglese, ma come parla un cetaceo? No, la prego, non fate queste battaglie contro il buonsenso. Lei sta ridendo. No, lei sta ridendo mentre dice questa cosa. Rometta e Giulieo già la fa ridere. No, ho sbagliato, scusi, era nella foga di dirle la novità che sta. Ma allora dovete tradurre tutto infatti, in Veneto. Perché non Omero? Abbiamo finanziato anche un traduttore informatico, in elettronico, dall'inglese al veneto. Oh mamma mia, ho capito. Ma perché non si fa una bella vacanza in Sicilia, in Magna Grecia? Perché non riscopre la culla della civiltà? Sono a cavolo e sto benissimo, glielo assicuro. Ho capito. Va bene, grazie a Roberto Ciambetti. A presto, lo salutiamo. E allora continuiamo con i nostri ascoltatori. Roberto, da Cagliari. Lei, che figlio dei Fenici, che cosa ci dice? Figlio dei Fenici, dei Punici, dei Romani. Io le dico che... mi sente? Sì. Sì, allora io le dico che l'unico... si usa disinvoltalmente, così, molto con molta disinvoltura, il termine, l'accezione lingua o dialetto. In realtà sono due cose molto diverse. Mi dispiace per l'amico veneto, ma si parla sempre di dialetti. L'unica lingua accertata, mi dispiace, è la lingua sarda, che è una derivazione del... diciamo una lingua neolatina, con tanto di varianti nel ligurese, campanese, nuorese e logudorese. Il resto, tutta Italia, sono tutti dialetti. L'unica che è, diciamo, che è stata anche istituzionalizzata, nel senso che è stata stabilita dalla Comunità Europea, c'è stata una legge regionale sul bilinguismo, sono sentenze, ci sono tesi di laurea discusse in sardo, esami all'università con i crediti sempre in sardo. Quindi al di là di questo, però, io non è che volessi fare spartire e avere questa, diciamo, primogenitura, non è quello il problema. Io vorrei dire invece che l'Italia si parlasse davvero l'italiano e che si parlasse anche l'inglese. E poi, quando vengono in Sardegna, io sono molto bene accetti, al contrario dell'amico di Genova. Poi, se non vogliono parlare italiano, così parlano inglese, ci capiamo meglio. Ok, era una battuta naturalmente. Grazie e vi ascolto. Ma guardi, io che nel cuore ho la bandiera dei quattro mori, non posso che concordare su questa precisazione. Sei ironica, perché veramente io credo che se ci mettiamo a fare la guerra dei dialetti siamo alla follia. Sentiamo un'altra chiamata. Edoardo da Verona. Buonasera. Sì. Io penso di essere non in linea con la sua idea, però io sono per il dialetto sicuramente a scuola, insegnato, rivista la storia, rivista un po' quello che è il modo fascista che attualmente esiste ancora per l'insegnamento della scuola anche in Italia, ancora tuttora anche adesso. Sarei per un inglese a scuola come lingua, direi quasi come lingua prima, e l'italiano come seconda lingua o una cosa del genere, bontà sua. O comunque paritetica. Ma allora perché ci parla italiano? Ce lo dica in veneto, così non la capisce nessuno, scusi. Ci parli in veneto. Questa perché di, perché sua, se la prende con l'italiano? È una provocazione sua che ammiro come cosa. Vede, l'importante è sapere e parlare 3-4 lingue almeno, come succede in tutti i ragazzi. Io sono andato spesso all'estero anni sì, fa. Ma lei parla per farsi capire, giusto? Perché allora non ci parla in veneto? Non parlo in veneto né E allora perché deve l'italiano deve diventare seconda lingua? Vengo capito come veneto. Posso parlare in inglese se vuole, in francese, vuole in russo. A me fa molto piacere il russo, ma siccome lei si vuole far sentire, giustamente qui a Radio 24 ha chiamato parlando in italiano. Allora l'italiano non dovrebbe essere la seconda lingua, la prima. Seconda lingua non vuol dire che non venga imparata come la prima lingua. Bisogna intenderci, io do come base nella facoltà di lingue che ho fatto io molti anni fa, c'era un programma, il piano di studio prevedeva 4 lingue base. Che io ho fatto e che potrebbe fare qualsiasi ragazzo, soprattutto se viene preso a 5-6 anni dalle scuole elementari. Cioè, l'idea ma lei non di si sente italiano? Sola... Scusi se le faccio questa domanda, lei non si sente italiano? Oddio, è rimasto a tappeto. Prima... No, non è una domanda tutto... complicata, ha fatto quattro lingue, ma la domanda è semplice. Prima di tutto Alpe Adria, poi italiano. Ah, quindi lei non si sente italiano? Fatto adesso di vedo che la mutolisce la domanda per provocatoria per no le ho chiesto, lei si sente italiano? Lei mi ha fatto scena muta e quindi sono incuriosito. Vedo semplicemente che prima di essere italiano, prima di riconoscermi come italiano, mi sento facente parte della grande famiglia europea. La grande famiglia europea c'è anche una Adria, la cosiddetta Alpe Adria, che è una ormai un organismo consolidato e che comprende tutte le varie regioni che bene o male si affacciano sulla Ho capito, sulla va bene. Allora, se lei va all'estero dice di essere di Adria. Io spero che le vada bene e io continuo a dichiararmi italiano. Guardi come sono vetusto. Fra poco, forse questa è una delle ultime puntate in cui potremo parlare in questa antica lingua italiana. Presto trasmetteremo in Veneto, in Brianzolo, in Padano, non lo so. Mi spiace per l'amico sardo, ma l'Europa ha stabilito essere lingua anche la piemontese e lombarda, che hanno una grammatica codificata. Una letteratura. Questo è un messaggio. Ma poi Claudio, cosa odono le mie orecchie? Anche il friulano è riconosciuto legalmente come lingua. Santa ignoranza. Vedi, insomma, ce n'è tanto. I leghisti vogliono il dialetto perché non sanno l'italiano. Questo è un cattivaccio che non si firma. Caro dottor Telese, grazie per l'apprezzamento, ma questi leghisti sono proprio tutti matti. Non le pare? Grazie Paolo Danna. Poi addirittura un insulto per me, un sardo, anche il veneto è lingua, Telese sei sempre più una M, Marco da Vicenza e poi Sandro da Crevalcore, questi sono zavagli pericolosi. Allora sentiamo Luigi da Milano, che cosa ha da dirci subito dopo i titoli del TG2. Le immagini inedite nel video di un turista dello scontro aereo a New York in cui sono morti 5 italiani, sospesi 2 controllori di volo, uno era al telefono con la ragazza, l'altro assente. Inflazione in Europa, luglio meno 0,7%, un risultato mai registrato dalla nascita dell'euro. In Italia l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,1%. Avvistato alle isole di Capoverde il cargo russo scomparso, secondo fonti europee avrebbe subito 2 attacchi ma non sarebbero pirati, rientrati in Italia i marinai della Buccaneer. Viaggio nel TG2 delle carceri italiane, prima tappa all'istituto penitenziario milanese di San Vittore. Il racconto dei detenuti, stiamo come sardine. I principi ereditari d'Olanda contro un'agenzia fotografica internazionale. Niente foto durante le nostre vacanze. Chiesto un risarcimento fino a 250.000 euro a scatto. Ma cosa scriveranno i settimanali rosa? Qua tutti seguono Berlusconi, Berlusconi fa sempre tendenza, adesso non vogliamo fotografi, non vogliamo scatti, anche i reali si arrabbiano. Luigi da Milano, le ho dato la parola, prego. Fal, mi sente? Certo, in che lingua vuole parlare lei? Allora, se vuole è napoletano, perché sono di Napoli, quindi... Da Milano ed è napoletano, già non va bene, ritorni subito giù. Ecco. Allora, no, allora parliamo in italiano. Non ci piace perché... questa gente che gira per le nazioni italiane facendo quello che gli pare. Lei perché è andato a Milano? Ma per tanti motivi. No, ma sto scherzando, ma si figuri, sono contento, anzi, che ci siano dei napoletani a Milano, io. Comunque, andando all'intervento, niente, vorrei dire una cosa, al di là della storia, quindi di chi ha unito l'Italia, no? Degli idealismi, del... in tutto questo, pensando un po' alle cose pratiche, no? alla sostanza, cercando un po' di ragionare in modo razionale, io mi chiedo che senso ha tornare ai localismi, cioè al di là del localismo fiscale, no? Quindi di quel discorso lì che magari serve a sensibilizzare le regioni sulla spesa, e quello ci sta, ma in un mondo in cui le dimensioni contano, quindi dimensioni demografiche, dimensioni economiche, no? Per contare qualcosa anche negli organismi internazionali. Perché, voglio dire, un'Italia già piccola, se unita, deve ancora di più disintegrarsi. Ma bravo, bravo, si butti in politica, Luigi. Noi abbiamo grandi speranze su di lei. Allora, sentiamo Susanna da Rimini. Buonasera, io Buonasera. Sono una veneta. Aia, ma perché anche lei che ci fa a Rimini? Ma io purtroppo ho sposato un sammarinese in primo matrimonio. Ah, oddio, ecco, ho capito, quindi un extracomunitario. Ecco, questo volevo sapere. Io mi devo sentire... Ho un figlio nato a Padova e una figlia nata a Rimini. Ma lei sono proprio italiana, vuole confondere le acque. Non ho preso cittadinanza sammarinese. Ma in questo momento, secondo la Lega, io mi devo sentire un'extra comunitaria paragonata a un nordafricano, un africano, una qualsiasi persona. Vogliamo unire l'Europa, io mi devo sentire fuori del mio paese quando sono a 200 chilometri dalla mia città. Ma roba da pazzi, ha ragione, che devo dirle? Io non lo so, meno male che non sono il solo, meno male che non mi avete lasciato solo in questa trasmissione. Ma guardi, mi arriva un messaggio: Telesi, impari gli accenti, fanno il terun, Monica, va bene, cercherò di non fare il terrone. Piemontesissima, abita a Roma, interessata alla linguistica, inneggio a tutti i 100 dialetti d'Italia, grazie, da Roma. Senta Susanna, ma per lei l'Italia resterà unita con questi non chiari di luna? Abbiamo lavorato tanto per fare un'Europa unita e vogliamo dividere il Veneto, facciamo la fine dei trentini dove hanno i due linguaggi, se poi vai su ti parlano in tedesco se non ti vogliono capire, se invece hanno piacere di capirti ti parlo in italiano. Ho capito. Vogliamo va bene fare questa fine. Grazie mille, vede, meno male che lei si è innamorata di quel bel sammarinese, sennò altrimenti l'Italia era più noiosa. La ringrazio. Grazie. Domenico dalla provincia di Foggia. Salve, sono Domenico, dicevo, pure io volevo intervenire sulla questione dei dialetti, mi sembra assurdo che si porti avanti questo discorso, appunto, che si faccia questa battaglia sui dialetti quando in realtà si ha bisogno di imparare almeno due lingue a scuola, due lingue straniere, cioè questa è la vera lotta che bisogna fare, altrimenti riduciamo tutti a un universo, appunto, localistico. E trionfa il modello, diciamo, di insegnamento e di cultura del figlio di Bossi. I nostri figli faranno tutta la fine di Lorenzo Bossi, bocciati 3-4 volte a scuola. Questa è la fine arriveremo a questo, insomma. Senta, c'è un messaggio divertente di Lorenzo, lo leggo. Oh, dica al sardo, al friulano, al veneto, al lombardo, al piemontese che l'unica lingua riconosciuta è la mia, il fiorentino, punto, cioè l'italiano. Lorenzo, se benditi un Oscar oggi per questo messaggio. Prego, Domenico, scusi l'interruzione. No, dicevo alla fine, poi il modello di insegnamento, cioè basta vedere poi alla fine cosa succede. Un ragazzo che impara sempre solo il dialetto a scuola, soprattutto il dialetto, non saprà confrontarsi con gli altri. No. Sarà una realtà esclusa a livello regionale, comunque avrà difficoltà a porsi con il resto dell'Europa. Cioè, non lo so, si avranno soltanto delle conseguenze negative, a parte l'unità d'Italia che va a finire a classe 48. Ma grazie Domenico. Allora sentiamo Tina dalla provincia di Lodi. Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo ricollegarmi ancora un po' sul discorso dei dialetti. È vero, è quello il signore facendo che mi ha preceduto, che è un assurdo, però io le posso garantire che avendo studiato qui a Lodi, nell'Lodigiano, e parlo un po' di anni fa perché ne ho 60, facendo delle magistrali mi sono trovata sempre a delle insegnanti che erano del sud. Effettivamente era come sentirli un po' parlare il dialetto, perché noi ci guardavamo in faccia che effettivamente c'erano abbastanza dei discorsi incomprensibili, vuoi l'accento, vuoi le parole strette, era quasi un dialetto, non è una provocazione questa, ma effettivamente noi non capivamo proprio completamente ho capito tutto. Ma ci sono come buoni e cattivi insegnanti, se un insegnante non si fa capire era un cattivo insegnante, ma diciamo. però questi insegnanti effettivamente, perché il timbro di voce e diciamo l'accento è un po' difficile, anche perché io vedo che a distanza di anni di gente che qui nel sud, come magari potremmo essere noi che andiamo giù, ci sono alcuni accenti che sono molto complicati da togliere, in effetti. Poi specialmente se c'è un insegnamento, maggior ragione che l'addizione è importante, perché deve essere molto chiara. Ho capito, però non creda che un veneto a Crotone diciamo acquisisce una spiccata pronuncia calabrese. Ci sono, restano delle tracce dialettali, in alcuni casi sono anche belle, non trova? No, ma basta che siano comprensibili, però, perché ha ragione. A una ragazza giovane, uno studente giovane, non tutte le pronunce vengono all'orecchio molto chiare, in effetti. Poi magari col tempo, se uno frequenta, le può anche capire meglio, ma da ragazzino effettivamente non è molto semplice, in effetti. Comunque ha ragione, va bene. Allora, non se ne fa una colpa, per carità. No, ma la colpa è che anche se un veneto non si fa, cioè un professore si deve far capire, poi se è veneto, se è marchigiano, certo, se è napoletano, certo, o campano, a noi certo, non ce ne frega nulla. Certo, sentiamo, certamente. Grazie signora, la saluto, Maurizio da Udine. Buonasera Luca. Buonasera. Per stare sul solco di quelli che mi hanno preceduto, volevo solo specificare che, come lei ha già detto, anche noi siamo protetti come lingua minoritaria dalla legge 482 nazionale. Le volevo dire questa cosa. Aspetti che mi è arrivato un messaggio delizioso. Massimo chiede: i leghisti potrebbero fare qualcosa per aumentare le distanze fra Prato e Pistoia? Questa mi pare buona, un'ironia sui campanilismi italiani. Prego, scusi se l'ho interrotta. Niente, guardi, volevo far presente una cosa che forse non si sa molto. L'Europa Unita tutela tutte le lingue minoritarie e ci tiene molto al fatto che una lingua come la nostra, c'è stato il commissario alle lingue minoritarie europeo che è venuto in Friuli, ha guardato in giro quello che noi abbiamo fatto in regione, perché noi abbiamo addirittura un ente che tutela la lingua, abbiamo una storia millenaria di scritti eccetera eccetera, ma ha detto che a livello locale stiamo facendo troppo poco per la tutela nostra. Questo, rifacendomi al signore di prima della Lega che nominava la Catalogna, in Catalogna ci sono radio private, ci sono televisioni, ci sono scritte in autostrada con i nomi delle città, dei paesi, per cui ci è stato detto che facciamo troppo poco rispetto a quello che potremmo fare, capisce? L'Europa ha tutto l'interesse a proteggere e a valorizzare le lingue locali, questo mi premeva bene far sapere. Grazie, ultimissima telefonata, Francesco da Verona, se è proprio essenziale e sintetico, prego. Sì, buonasera, senta, io abito in Veneto e sono nato in Veneto. dico che mi vergogno di essere veneto, perché il Veneto ha rinnegato le proprie origini contadine in nome del cemento, delle villette, dei capannoni. Il nostro territorio è devastato grazie a questi politici che sono i peggiori d'Italia, che girano con le loro cravatte verdi ridicole, e adesso vengono a dirci che vogliono fare anche i cartoni animati in dialetto. Cosa? Quale dialetto? Non esiste il dialetto veneto. A Verona si parla un dialetto che a Venezia non si capisce, è il contrario. Lui dice di sì. Grazie Francesco per questa testimonianza. Il tempo tiranno è finito. Allora ringrazio anch'io la possente redazione: Gloria Guerrera, Antonella Migliaccio, il grande Mattia Nocchi, il regista Pietro Lacorte e Valerio Rocchetti. E insomma, qui chiudiamo la zanzara. Torniamo a ronzare la prossima settimana. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.